Mi capita di leggere un'intervista ad un portiere del Milan, tal Abbiati. Occhio e croce, sembra seccato del fatto che il nuovo allenatore non l'abbia fatto giocare, ma come si usa in circostanze similari, copre, diciamo, di integralismo democratico il proprio pensiero. Dice che è seccato del fatto che il nuovo allenatore non è che non l'abbia fatto giocare, no, è che non gli abbia spiegato il perché della sua esclusione. Tuttavia ritiene di concludere poi l'intervista con una mossa retorica piuttosto osé. Senza che nessuno gli ponga quesiti in proposito, dice che comunque alle prossime elezioni sia lui che la sua famiglia voteranno per Berlusconi. Essendo il Milan di Berlusconi, lo sviluppo del discorso non è strettamente conseguenziale, ecco, ma è innegabile, diciamo, che sia comprensibile che l'affermazione appaia come il segno di una minuscola transazione commerciale. Evidentemente non lo preoccupa. Mi capita di leggere un'intervista ad un ex boxer già campione del mondo nella categoria dei super welter, tal Sandro Mazzinghi. Dice che l'anno scorso si era presentato alle elezioni comunali per il Partito dei Comunisti Italiani e che quest'anno voterà per Berlusconi. A chi gli fa notare la piccola differenza ribatte professando la propria coerenza. Per amicizia era stato con i comunisti, ma lui comunista non è, e per dare consistenza ideologica alla sua affermazione aggiunge: altro che comunista, a me non mi ha mai aiutato nessuno. Occorrerebbe occuparsi a fondo sia della cultura politica degli sportivi che della cultura politica indotta dallo sport. Non in quanto tale, ben inteso, ma in quanto attività organizzata ai fini di una sua bella funzione sociale. L'infezione di qualunquismo. Servilismo e ignoranza sono requisiti complementari indispensabili per chi governa e per chi è governato. La presenza dello sport nella rappresentazione coatta del mondo è troppo cospicua per non destare il sospetto che lo sport sia diventato il vettore principale della diffusione di questo servilismo e di questa ignoranza.